Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say. Adesso sì, li vivrò con te.